140 caratteri, una settimana di spettacoli di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e le dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Sta vivendo una nuova evoluzione e il suo ultimo album si chiama proprio Evolution. Una grande donna. Anastasia. You're always a woman in evolution. Sei sempre una donna in evoluzione. But how can you be every time better? Come fai a essere sempre meglio? How do you do it? I don't know that I'm every time better. Non so se miglioro ogni volta. Penso che nella vita, quando ti succede qualcosa, speri semplicemente che la volta in cui ti ricapita una cosa simile, tu riesca a reagire meglio. More familiar. And so each... E così a ogni curva della vita penso di aver imparato proprio questo. Non ho ancora finito di imparare, ma ce la metto tutta. I really liked your album. Mi è piaciuto moltissimo il tuo album. I really liked the wedding song. I've never been married. Non mi sono mai sposata. I got one. But I deserve a wedding day. Mi merito questa gioia. Is this the meaning we deserve a wedding day, sort of? Yeah, I think that whether you've been married or not, everyone sì, penso che se tu sei stata sposata oppure no, chiunque si meriti una canzone del genere e si meriti di provare quella gioia più spesso possibile. As that kind of thought, and we have too many heavy days that passiamo giornate troppo pesanti, troppo dure. È bello poter pensare di avere un giorno al mese o due in cui provi la gioia di un giorno del matrimonio. E magari ti accorgi che vuoi provare quella sensazione una volta alla settimana e poi dici: voglio sentirmi così tutti i giorni. Come succede a me? You got the eye of the tiger, an unending fire. What do you see in the eyes of the women of your public? Cosa vedi negli occhi delle donne che vengono a vederti? For me, the women and I very much connect, and there's a real. Io mi sento molto in sintonia con le donne. Provo un grande rispetto per le donne italiane, per la loro forza. Sono convinta che possono fare qualsiasi cosa. Possono cucinare, pulire, lavorare, stare con i figli. È pazzesco perché io non ce la faccio a fare tutto. But I also believe that even though I don't do everything they do, there's definitely. Eppure credo che anche se io non sono capace di fare tutto quello che sanno fare loro, c'è grande rispetto reciproco. Io ammiro l'orgoglio delle donne italiane. Mi piace passare del tempo con voi. Siete come pavoni. You know, I like to hang out with them and feel even more because you guys are kind of like peacocks. You could be Italian. Potresti essere. Okay, yay. Last question, l'ultima domanda. You sang with a lot of Italian performers and you were the first to discover Francesco Gabbani. Sei stata la prima a scoprire Gabbani. I know. I'm sorry to tell everybody that I have my. Lo so, mi dispiace dirlo sempre, ma sono stata la prima a tenerlo d'occhio. È sempre stato pazzesco. Quando l'ho sentito la prima volta, ho detto: devo cantare con questo ragazzo, portatemelo. Non potevo sapere che la sua carriera sarebbe esplosa in questo modo. Ma non sono sorpresa, se lo merita. È grandioso, ha talento, è un grande performer, è divertente, le ha proprio tutte. E poi finalmente ha imparato a fare le Instagram stories. Diceva di non saperle fare ed è diventato un esperto. When he finally did his first Instagram story, I was like, yeah! You know, he was like, I don't know what I'm doing, this is Instagram. And now he's an expert, so good for you. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Anastasia. L'appuntamento con 140 caratteri è ogni sabato alle 15. Noi ci ritroviamo tra un'ora con RadioTube. Ancora un saluto da Marta Cagnola.